Cialtroni nello spazio, seconda puntata di questa 2006-2007. Bentornati. Bentornati e bentornate, anche Marco che ci fa sentire la sua voce con prepotenza. Andiamo subito a spiegare, quindi Marco, che cos'è Cialtroni nello spazio? Vedo che stavolta ti sei preparato. Cialtroni nello spazio, la trasmissione di approfondimento informatico-tecnologico di Radio Onda d'Urto. Vabbè, insomma, non sapevi rispondere, hai fatto rispondere il tuo computer, va bene, ciao. Un pappino sempre su questa frase. Salutiamo anche la nostra ospite di quest'oggi, che ciao è Gloria. A tutti e tutte. Ciao Gloria, che è venuta a ricordarci che cosa succederà domani al Circolab. Domani al Circolab, grazie per questo passaggio, succederà... No, domani esattamente non succederà proprio niente al Circolab, però no, c'è un domani. Appuntamento per il giovedì sera, per che le è grandi... Domani. Che è domani? Che è domani? Sì. Ah, è vero, sì, scusatemi, sono un po' sfasata, Ci sono le grandi pulizie del Circolab, quindi tutti e tutte siete invitati a presentarvi al Circolab per darvi da fare. Nuovo indirizzo del Circolab. Infatti, tremate, il Circolab sta per riaprire. Il nuovo indirizzo del Circolab? Fratelli Bandiera, numero 12. C'è una vetrina comunque. Un 12 o 14. Non si è mai capito. Vabbè, abbiamo sentito anche la voce di Alessandro che ci ricorda la scaletta di quest'oggi. Sì, lo sai. La dici sempre tu, non lamentarti. Ti odio. Allora, stasera parleremo ancora del Linux Day, che è questo fine settimana. E qualche breve sugli aggiornamenti di un paio di software importanti. Una rettifica della settimana scorsa e qualche altra news. Non perché abbia sbagliato noi, ma perché per fortuna le leggi sono cambiate nel giro di una settimana. Allora, per parlare del Linux Day, tra pochi istanti al telefono con noi ci saranno degli esponenti del LUG OB e esatto. Del LUG di ingegneria. Marco, perché sei qui e non stai componendo i numeri di telefono? Perché non sono capace. Intanto Alessandro ci spieghi un po' che musica andiamo ad ascoltare quest'oggi. Allora, beh, oggi abbiamo cambiato tappetino, sempre preso da Yamendo. Si chiamano, dunque, l'album è, cioè, si chiamano Ted Lap, l'album è Emotion, e lo teniamo come tappetino, poi prenderemo un altro pezzo invece da ascoltare così. Iniziamo a parlare del Linux Day di quest'anno a Brescia. Noi siamo in collegamento con Daniele, se non sbaglio. Pronto? Sì, pronto, ciao. Ciao Daniele. Del LUG OB, del LUG dell'Ovest Bresciano, giusto? Sì, esatto, esattamente. Ecco, allora ci vuoi un po' presentare l'edizione di quest'anno? Cosa avete messo in campo voi del LUG OB? Beh, allora, l'edizione di quest'anno praticamente prevede una mini sessione di presentazione di quello che è effettivamente il mondo Linux, il mondo open source, e seguirà una dimostrazione effettiva sul campo di come funzionano questi software, di come si installano. L'utente può addirittura venire, se vuole ed ha problemi magari ad installarlo a casa sua, può venire lì effettivamente col suo PC, col suo portatile, con la sua macchina, lo installi, gli dimostriamo come. Quindi è anche un po' un installation party? Sì, sì. Volendo, nelle necessità, sì, esatto. E poi più tardi invece ci saranno una serie di dimostrazioni tecniche su evoluzioni del mondo Linux e del mondo open source, come non so, ad esempio, evoluzioni grafiche fatte con XGL, oppure non so, tipo un PVR fatto. Non so. Cos'è un PVR, scusa? Un personal video recorder. Dimmi. Che per farti un paragone, avete presente il personal video recorder di Sky? Ma più o meno abbiamo visto la pubblicità. È quello scatolotto che ti registra qualcosa, tipo la trasmissione, la partita di calcio. Esatto. Insomma, una persona può venire all'incontro e imparare a utilizzare il computer un po' come videoregistratore. Se non... Sì, anche, sì, esatto. Oppure come creare come utilizzare un servizio di VoIP, telefonino VRP, utilizzando sistemi gratuiti come Linux. Quindi è un programma abbastanza esteso, cioè varie direzioni avete preso appunto. Sì, in questo. Sì, abbiamo cercato di coprire il più possibile. Esatto. E secondo Linux Day che fate, giusto? L'anno scorso? Sì, esatto. Com'era andato? Beh, l'anno scorso bene, diciamo, con un'affluenza di circa 80-100 persone, comunque è andato abbastanza bene, diciamo. Ecco, quanti erano quelli che più o meno si sono avvicinati per la prima volta al mondo di Linux e quanti invece magari venivano ed erano un po' già più esperti? Beh, Dio, diciamo un 50-50 più o meno. Quindi secondo te il Linux Day funziona anche per attirare proprio le persone sì. che non ne sanno assolutamente niente, quindi sì, va bene sì. per chiunque voglia avvicinarsi a questo mondo anche per la prima volta, cioè, mi sembra di capire che ci sono comunque anche dei seminari introduttivi per cercare di avvicinare proprio questo mondo. Sì, esattamente, così serve più che altro ad invogliare la gente a cambiare, a conoscere questo mondo. Sì, esatto, diciamo. Più che altro magari le persone tendono a spaventarsi di fronte alle novità, invece in un Linux Day si può appunto far vedere che non c'è nulla di cui spaventarsi, anzi esatto, che... Esatto. Senti, per le attività invece abituali del LUG dell'Ovest Bresciano? Beh, le attività abituali sono degli incontri settimanali che si svolgono nel comune di Cologna, che ci mette a disposizione una stanzina con tanto di connettività e apparati vari, dove ci si incontra e si fanno sedute varie. A volte c'è qualcuno di noi che porta un argomento che ben conosce, o per lavoro o per studio, e lo espone a tutti, oppure una semplice chiacchierata tra amici di informatica, insomma. Vogliamo ricordare allora quando si tiene e dove si tiene l'incontro del Linux Day dell'Ovest Bresciano? Si terrà a Cologna, nel comune di Cologna, sabato 28 a partire dalle 2 di pomeriggio. Dalle 2 di pomeriggio, poi tutto il programma per chi volesse consultarlo è disponibile? È disponibile online sul sito del LUGOB, cioè www.lugob.org. Scritto LUGOB ovviamente. LUGOB.org, esatto. Perfetto. Daniele, noi ti ringraziamo se non hai niente da aggiungere rispetto a questo. Io avrei finito qui. Ok, perfetto. Grazie ancora. Mille. Perfetto, vi ringrazio ancora. Ciao, ciao, buona ciao, fortuna ciao, per ciao. Il Linux Day. Grazie, altrettanto. E tra poco parleremo anche di un altro Linux Day, quello che si terrà invece nella giornata di venerdì alla Facoltà di Ingegneria di Brescia. Allora, andiamo a presentare adesso anche il Linux Day che si terrà in ingegneria questo venerdì a partire dalle 14.30 nell'aula B05. Siamo al telefono con Pedro. Ciao Pedro. Ciao a tutti, ciao Marco e tutti gli ascoltatori. Ecco, allora volevo anche chiederti, ci dai un po' una panoramica di quali sono le iniziative messe in campo a ingegneria per questo Linux Day? Innanzitutto, chi l'ha organizzato? Diciamo, se proprio dobbiamo dare una definizione, siamo un gruppo, una libera associazione di studenti sostanzialmente, che accomunati dalla passione per appunto il pinguino e tutto il software libero in generale, abbiamo deciso di diciamo unire un po' le nostre potenzialità per quello che sappiamo fare e organizzare appunto questo incontro divulgativo, ecco. Avete avuto anche collaborazione da alcuni professori, mi pare di capire, dal programma. Sì, questa è la seconda volta che organizziamo l'evento, anche l'anno scorso, e esortati diciamo dalla buona riuscita dell'anno scorso abbiamo deciso di riproporla. In particolare il professore che ci segue più da vicino è il professore docente di sistemi operativi, il professor Baroni, che anche l'anno scorso ha fatto una bellissima introduzione diciamo filosofica sul software libero e ripeterà anche quest'anno. Ecco, poi come proseguirà la giornata dopo questa introduzione? Sì, tratteremo diversi argomenti, diciamo che l'evento è più che altro mirato verso i neofiti, diciamo, non è un evento molto tecnico. In particolare faremo vedere la tecnologia XDL, che è diciamo un po' il cavallo di battaglia di recente delle ultime distribuzioni, e in particolare l'uso di Veril. Dopodiché tratteremo il LaTeX. Beh, questo magari non è proprio una roba per i neofiti di Linux, dai. Il LaTeX? Sì. Beh, il LaTeX però in ambiente universitario effettivamente. È utile saperlo. E poi diciamo che non è neanche Linux, volendo vedere, è una cosa che comunque faremo vedere sotto Linux. È comunque software libero, per cui ci sì, sta esatto, dentro. Software nel... libero, quindi ne prenderemo l'occasione. Dopodiché faremo vedere un po' i principi del thin client networking, cioè praticamente tutte la possibilità di utilizzare delle workstation remote su server o cose del genere in maniera molto pratica e diciamo per dare la possibilità anche per dare l'idea a chi non è diciamo abituato al concetto di client server in questo ambito. Ho poi una piccola introduzione alla virtualizzazione, e questo sì, ci posso dar ragione, non è un argomento troppo da neofiti, però... Vabbè, tanto per non far annoiare quelli che già Linux lo conoscono, appunto, ci sta esatto. Bene, dai. Diciamo che il relatore Cerutti è una persona che ha fatto la sua tesi su questo lavoro, ma gli ho raccomandato di non entrare troppo sul tecnico, perché sarà comunque una cosa interessante da vedere. Poi c'è abbiamo in mente, adesso stiamo ancora definendo bene gli ultimi dettagli dell'intervento, una piccola carrellata su quella che è stata la storia recente di Gnome e diciamo le sue aspettative per il futuro. Questo è un argomento che diciamo è un po' soggettivo, però cercheremo di trattare l'argomento in modo più... Cioè le storiche battaglie tra Gnome e KDE, esatto. Insomma, mettiamola. Esatto, poi ci sono anche i Mac user adesso che cercano di ricavarsi la loro nicchia, giustamente. Bene, poi sì. Ho visto anche un'installazione sì, Linux. Sì, in conclusione c'è un'installazione Linux, cosa progetto OpenWRT, insomma. Sì, poi abbiamo ancora un paio di argomenti, un'applicazione di Linux come Media Center, utilizzando VDR. Ah, anche voi, perché come? Abbiamo appena intervistato quelli del Look the Lovers Bresciano, anche loro presentano una cosa simile. Mi sa che riciclano la è guerra tra i Look bresciani, quindi sì, è un esterno che viene ancora non conosco, si è proposto di venire a fare la presentazione, mi sa che c'è qualche nesso tra l'uno e l'altro. Ah, bene, quindi meglio così, si replica l'evento. Tra l'altro il Linux Day Brescian di ingegneria e quello di LugoB si svolgono in giornate diverse, giusto? Esatto, nonostante la giornata del Linux Day è fissata per il 28 su scala nazionale, noi ovviamente abbiamo la facoltà chiusa in questo giorno e abbiamo dovuto anticipare di un giorno, il 27. Ultimo argomento... Sì, dai. Vai pure. Vado avanti, ok. È praticamente una piccola dimostrazione di una distribuzione Linux che gira su dei router, il progetto OpenWrt, per chi ne ha sentito parlare. E niente, faremo vedere semplicemente che è possibile far fare a un semplice router tutte le cose che vengono fatte normalmente da un server, ecco. Utilizzare appunto un routerino come server economico e sì, che sono quelli scatolini che costano veramente, esatto, poco. Sì, normalmente silenziosissimi. Sono legati a un uso molto semplice, tipo router o condivisione di rete wireless o un poco più. Da noi si può, cioè, installandoci sopra Linux è possibile usarli come server di posta, utilizzarli per scaricare torrent o mille altre applicazioni. Ecco. Sì, infatti i progetti con quelli a fare lì sono abbastanza carini e simpatici. Per chi non sapesse, questi qua sono degli scatolini grandi 10 cm per 10, ci si attacca dietro. Un disco esterno e dall'altra roba permettono, non so, di condividere file sulla rete senza avere un computer acceso, di fare un sacco di cose, appunto. Tutto questo nell'aula B05 della Facoltà di Ingegneria venerdì a partire dalle 14:30, ovviamente aperto a tutti, non solo agli studenti di ingegneria, mi sembra di capire. Perfetto, noi Pedro ti ringraziamo, se non hai niente da aggiungere. Niente, vi ringrazio per la visibilità data all'evento, che speriamo sia utile per avere molta gente. L'anno scorso com'era andata? L'anno scorso non era male, era più, cioè, ci aspettavamo un evento, un'affluenza maggiore, soprattutto dal punto di vista di curiosi. C'era più gente che Linux già lo conosceva, ecco. Speriamo che quest'anno vada un po' meglio, ecco. Anche cose interessanti ci sono, per cui speriamo che comunque. Sì. Inoltre, volevo certo, ancora un attimo. Alla fine dell'evento ci sarà la possibilità di installare, di ricevere assistenza per l'installazione di Linux sul proprio PC portatile. Allora, auguri soprattutto per questa parte, perché dovete tenere alto il nome di Linux e speriamo che non si crei particolari problemi di qualcuno che vuole installare qualcosa di assolutamente complicatissimo. Ti ringraziamo, Pedro. Niente, buona serata. Ciao, okay. A presto. Ciao. E facciamo un breve stacco musicale. Allora, questo era il pezzo che dicevo prima. Allora, si chiamano Sunny Monroe, sempre preso da Yamendo. E il titolo della traccia è Topic of Cancer. You're right. Allora, torniamo in trasmissione e passiamo con il dare la segnalazione che dopo la denuncia lanciata da Cialtroni nello spazio c'era soltanto una cosa, sì, vero, volevamo, sì, perché ci siamo dimenticati di citare che c'è, abbiamo già parlato la settimana scorsa, però non lo volevamo ricordare, ce lo stavamo dimenticando, che 28 ottobre, quindi sabato, anche il Garda Lug, il Linux User Group del Lago di Garda, appunto, presenta il suo Linux Day. In particolare, vabbè, sarà una specie di riunione, di discussione tranquilla, esatto, una misto tra una tavola rotonda e un mercato di paese, dove ai vari stand ci saranno delle persone che presentano appunto particolari cose, particolari caratteristiche del software libero. E quindi sarà un incontro abbastanza informale, appunto, per la diffusione di Linux. Avremo una introduzione iniziale, poi vabbè, si parlerà di Linux in ambito educativo, di sviluppo software con Linux, di fotoritocco, si parlerà di nuove distribuzioni di Linux, di OpenOffice, insomma un incontro abbastanza ampio su quello che riguarda il mondo del software libero, e che appunto si terrà nel comune di Puegnago, in piazza Don G. Baldo, che nella località Castello del paese, e inizierà dalle 14.30 alle 18.30. Ricordiamo il sito del Gardalug, che è www.gardalug.linux.it, per avere maggiori informazioni. Allora, facciamo un riepilogo brevissimo. Quindi, per quanto riguarda il Linux Day di ingegneria, venerdì 27 ottobre, aula B05, ore 14.30. Per quanto riguarda il Lugo B, a partire dalle 14 presso la sala del comune di Cologne. Però il sabato 28. Sabato 28. E per quanto riguarda il Gardalug, sabato 28, a partire dal 14.30 in piazza Don Gibaldo, la sala del comune, appunto, del comune di Puegnago. Dopo aver ricordato il Linux Day nella provincia di Brescia, passiamo adesso a un'altra notizia. Stavamo dicendo che dopo la poderosa denuncia arrivata da Cialtroni nello spazio nella scorsa settimana su un articolo, siamo arrabbiati, su un articolo della finanziaria, hanno deciso bene di toglierlo. Dai, fai un po' la faccia di qualcuno arrabbiato, veramente arrabbiato, che poi ha vinto. Ecco, bravo Marco. Un'assimata nel microfono, bello schifo. Allora, a parte gli scherzi, è stato cancellato l'articolo della finanziaria che prevedeva una tassa sulle rassegne stampa, vero Alessandro? Sì, è stato rimosso dalla bozza che è andata in Parlamento, quindi non verrà discusso. In teoria potrebbe rientrare, era l'articolo 32 che prevedeva sostanzialmente la rimozione di quell'esenzione o quella sospensione del diritto d'autore prevista per le produzioni informative, in sostanza, quindi giornali, cose di questo genere, che potevano essere citati riportati integralmente che citando la fonte. Per il momento l'articolo è stato sospeso, vista anche la levata di scudi, però la cosa potrebbe rientrare dalla finestra, diciamo, nel continuo tentativo comunque di espandere il diritto d'autore anche là dove non era, dove c'erano comunque ancora delle sacche di dominio pubblico, diciamo. Anche se ovviamente era molto difficile da applicare questa norma, in quanto prevedeva che chiunque pubblicasse anche su un sito internet un articolo di giornale o una parte di un libro, anche per organizzazioni no profit come possono essere varie associazioni, comitati ambientalisti e tutta una serie di cittadini singoli che decidono di fare informazione riportando integralmente qualcosa scritto da qualcun altro, insomma, sarebbe stato molto difficile da controllare e da far in qualche modo eseguire. Comunque l'articolo è stato rimosso e staremo a vedere nelle prossime settimane, occhi aperti, quindi, quando ci sarà probabilmente la fiducia su questa finanziaria, e staremo a vedere che cosa succederà. Andiamo avanti con le news. Comunque andiamo a parlare adesso di dell'uscita di OpenOffice. Un'uscita non eclatante, nel senso, non almeno per la major release, non è uscita la versione 2.0.4 che porta alcune modifiche generali. Allora, la gestione migliorata dei PDF, una cosa interessante è l'esportazione diretta verso LaTeX, che è una cosa che interessa poco gli utenti base, ma parecchio gli utenti che, insomma, vogliono provare a lavorare con un word processor che non sia così semplice e ma anche poco performante, sicuro rispetto alla gestione dei temi delle impostazioni grafiche dei documenti. In particolare la versione italiana è interessante perché è stata ricompilata finalmente dal progetto Plio, che è quello che si occupa del progetto linguistico italiano, che si occupa appunto della gestione italiana del pacchetto OpenOffice. E una ricompilazione che non c'è più stata dalla release beta e che quindi va ad integrare una lacuna rispetto all'internazionalizzazione del pacchetto. E in questa versione sarà inclusa anche il dizionario, oltre al dizionario tradizionale, anche il dizionario dei sinonimi, quindi il thesaurus, e appunto tutta una revisione per quanto riguarda la modulistica, l'app online. Quindi insomma il pacchetto è diventato, diciamo, completo anche per gli utenti italiani. E poi diamo contemporaneamente una smentita e un annuncio, visto che nella community informatica si è molto discusso in questi giorni dell'uscita di Firefox 2.0. Sono comparsi anche degli articoli che davano il link alla versione da scaricare, che però non era quella finale, quindi questo ha creato magari un po' di disappunto, mettiamola così, da parte di qualcuno. Comunque le anticipazioni rispetto a Firefox 2.0, che dovrebbe essere disponibile forse già da domani, ma addirittura comunque nel giro di una settimana, possiamo già dire qualcosa? Sì, ha già una serie di novità. Allora, vabbè, la predisposizione al mitico web 2.0, che è comunque uno standard tutto a divenire, considerato il futuro di internet, in realtà anche una cosa molto commerciale. Comunque il supporto c'è, come c'è sempre stato per Firefox rispetto alle novità riguardo agli standard, come appunto quello del web 2. La nuova gestione degli RSS è migliorata, anche questa è una funzionalità che diventa sempre più interessante e ricercata, quindi la possibilità di avere le news raccolte esattamente come un bookmarks, come un segnalibro. E poi gli aggiornamenti di sicurezza con alcune nuove funzionalità come l'anti-phishing, ovvero un sistema che permette di classificare i siti e che permette di stabilire, come di controllare la veridicità dei siti. In particolare ricordiamo l'esempio di Poste Italiane, dove con una mail venivano ridiretti gli utenti verso un sito fasullo in cui poi l'utente avrebbe dovuto inserire il suo nome utente e password per l'accesso all'home banking. In questo caso Firefox segnala attraverso un sistema di semafori, di segnali insomma rossi, verdi e gialli, o addirittura un non accesso ai siti già classificati come siti fasulli. Comunque segnala l'attendibilità di questi siti e aiuta visivamente l'utente a non cascare in queste bufale. Altra novità è il supporto ad altri standard che sono in evoluzione, vabbè, il JavaScript 1.7, l'SVG, Ajax, una serie di novità. In realtà in questi giorni è uscito anche la nuova versione di Internet Explorer, che più o meno ricalca lo stesso tipo di evoluzione, quindi un passo in avanti verso il web 2.0, anche lì novità per quanto riguarda gli SSS, differenze sulla gestione della sicurezza, e qui però bisognerà aspettare ancora un po' di tempo, insomma la prova dei fatti, per vedere se effettivamente queste migliorie fatte all'interno di Internet Explorer, che è il browser più vulnerabile che ci sia oggi sul mercato, o meglio quello che è anche quello più diffuso, purtroppo quello più diffuso, ma in realtà fin dalla sua prima uscita è sempre stato il browser più vulnerabile. Finalmente sarà presente il tabbed browsing, cioè la possibilità di navigare con le cartelline, cosa che esiste ormai già da 5 anni in tutti gli altri browser insomma in circolazione, come Opera ad esempio. E, ma per il resto molte funzionalità si ricalcano, per cui non ci sono grandi novità. La grande differenza, diciamo che Microsoft era rimasta ferma col suo Internet Explorer 6 da oramai non so quanti anni, penso 4 da anni, 3-4 anni, sì, più per o meno. Per cui visto che ormai cominciava a perdere già quote di mercato, appunto relativamente alla percentuale di utilizzo del suo browser, nell'ultimo ha anno, dovuto darsi una mossa appunto per... Nel giro dell'ultimo anno ha avuto una perdita superiore al 10% dell'utilizzo del browser, chiaramente statistiche da prendere con le pinze. E, niente, volevo citare una cosa che probabilmente era sfuggita, lo stesso giorno in cui Internet Explorer 7 usciva anche una vulnerabilità che funzionava con Internet Explorer 7, in particolare una qualsiasi pagina HTML avrebbe permesso di accedere al contenuto della cache di Internet Explorer 7, quindi di conseguenza tutte le informazioni in esso contenute, tra cui le informazioni eventualmente di home banking o di login e password o di altre cose. Per cui comodo, comodo per qualsiasi truffaldino che volesse. Esatto, per cui insomma alla fine utilizzare Internet Explorer è sempre un rischio e per oggigiorno non ci sono motivi per non usare Mozilla e i prodotti fatti dalla Mozilla Foundation. L'ultima notizia che diamo prima di chiudere la trasmissione è che Wikipedia parte l'acquisto di copyright in un certo senso, ovvero ha annunciato Jimbo Wales, il guru di Wikipedia, che si dedicherà all'acquisto di materiale protetto per facilitare la liberazione di cultura attraverso internet. Il budget previsto è di $100 milioni, quando lanciano qualcosa sembra sempre che debbano esserci tanti zeri davanti, e lo stesso Wales ha detto che bisogna sognare in grande. Tra l'altro la cosa che è curiosa e che probabilmente anche carina è che chiunque può dire che cosa vorrebbe liberare. C'è proprio una wish list sul sito di Wikimedia, non su Wikipedia ma su Wikimedia, che è l'elenco di quello che volete liberare. Potete decidere, per esempio potete scegliere tra libri antichi, quotidiani, archivi governativi, raccolte fotografiche, documentari o magari software specialistici, questo almeno dagli annunci che vengono lanciati da Wikipedia. E voi il software, il libro, l'articolo, la fonte che raggiungerà maggiori votazioni sarà quella che verrà liberata e messa gratuita e disponibile a tutti sulle pagine di Wikipedia. E questa è l'ultima notizia. Questa è la nostra sigla che parte in sordina perché Alessandro tiene basso il volume. Stavi parlando. Radio.circolab.net, il nostro sito che verrà aggiornato puntualmente da Alessandro ogni settimana, dove potete trovare tutti i link e i riferimenti degli articoli citati durante la nostra trasmissione. Potete anche trovare la nostra email, che è radio@circolab.net oppure spazi.chiocciolacircolab.net. Ma non è vero, è radio.chiocciolacircolab.net. La nostra trasmissione andrà in onda la settimana prossima, mercoledì, attorno alle 12:40 circa. Un saluto dai cialtroni nello spazio.